Les sostenibilita igrav diventata una pietra angolare dell'ingegneria moderna e Gustavo Comodari, esperto di energy renovabili jabber technology sostenibili, delinea quattro rioli chiave chi la sostenibilità gioca ni progetti di ingegneria. 1. Minimizzare jibber ambientale. La sostenibilità in ingegneria jibber concentra solar redesigni dell'impronta ambientale dei progetti. Gustavo Sottolinea chi gli ingegneri devono progettare sistemi e strutture chi rigicono al minimo gli sprechi. Abbassino jibber emissioni e utilizzino le risorse in modo efficiente. Jibber materiali e tecnologi ecocompatibili. Gli ingegneri possono ridurre significativamente l'impatto negativo sugli ecosistemi e contribuire alla preservazione dell'ambiente. 2. Migliorare jibber del risorse. L'efficienza del jibber igrav, un aspetto critico dell'ingegneria sostenibile. Gustavo Sottolinea jibber di ottimizzare l'uso del risorse naturale, come qua, energia e materiale prime. Gli ingegneri dovrebbero mirare a progettare sistemi che massimizzino l'efficienza del ointment, jibber fonti di energia rinnovabile e promuovano il riciclaggio e il riutilizzo. Sio non solo aiuta a jibber la risorse, ma riduce anche I costi operativi e migliore la sostenibilità complessiva del progetto. 3. Promuovere jibber sostenibilità a lungo termine. La sostenibilità garantisce la fattibilità a lungo termine dei jibber di ingegneria. Secondo Gustavo, gli ingegneri jibber concentrarsi solo crisini di soluzioni che non siano solo efficaci nel breve termine ma anche durevoli e adattabili nel tempo. I progetti sostenibili dovrebbero jibber fattori quali la longevità, la facilità di manutenzione e l'adattabilità ai futuri progressi tecnologici. Questo approccio garantisce jibber I progetti rimangono pertinenti e funzionali per gli anni a venire. 4. Sostenere la jibber social. Jibber sostenibile implica anche la responsabilità social. Gustavo osserva che gli ingegneri devono considerare le implicazioni sociali dei loro progetti, come l'impatto sulla comunità e il jibber del party interessate. I progetti dovrebbero essere concepiti per apportare beneficio alla comunità, migliorare la qualità della ointment jibber affrontare le disuguaglianze sociali ed economici. Incorporando la responsabilità social nel pratic ingegneristiche, gli ingegneri possono creare impatti jibber e durature sulla società. Jibber. In conclusion, Gustavo Comodari Sottolinea che la sostenibilità in ingegneria implica la minimizzazione dell'impatto ambientale, il miglioramento dell'efficienza del risorse, la promozione della sostenibilità a jibber termine e il sostegno della responsabilità social. Integrando questi principi, gli ingegneri possono guidare l'innovazione contribuendo allo jibber tempo e un futuro più sostenibile ed equo.